aggredisce più a lui che a me, in pratica, capite? Beh, quando è abituato così, ma anche quello che c'ho io, là, no, è bravo come cane, se no mette se va in campagna, magari, entra qualcuno che non conosce, si avventa, e fa tu usci su là, è bravo, si fa carezzare, chi su di voi, però se di notte entra qualcuno che non conosce, si avventa, Ehi, quelle volte non mangiavo, quando veniva gente, c'era un periodo non potevo entrare nessuno entro il peso, piano piano gli ho insegnato le certe cose, non dovevo farle, e allora non le ha fatte più, capito? Però è così, beh, territorio suo è fra, non è che quando c'è il territorio suo è chiaro che fa così, vai Anto. Capo, è normale, territorio suo sì, piccolino è. Voi quando glieli insegni non le fate più di queste cose, ma io vi devo lasciare, ci sentiamo un po' più tardi, ok? Vabbè, a tu dai, ciao allora, buona carica, buon tutto so devi fare, ciao, riascoltare più tardi, ok, vai qua. Ciao Anto, ciao, se coincide a più tardi, dai, vediamo un po', se coincide ci aggiorniamo più tardi, ciao, buon fine serata. Ehi a capo, dai, ci sentiamo un po' più tardi, vado giù a fare qualcosa che non va in sala, e ci danno da la giulenda e sono solo a casa. Ehi, ehi, fai, dove non sono noi, lo stesso siamo soli, io e mia moglie, perché l'aria è uscita poco fa, sono andato a farsi un giro, ricordatevi che prima delle 11 e mezzo dovete essere a casa, quasi quasi sto tenendo una vita con mia moglie. Quasi invece mi accendo la stufa a pelle e tinocchi, quasi. Ehi, cazzo, ancora non l'hai accesa, fra che ora l'accendi a mezzanotte? No, qua alle 4 è partito il timer, sono già i termosifoni che stanno bollendo, si sta bene. Infatti va fra poco, me ne vuoi bubù la felpa. Adesso l'accendo un attimo, dai, aspetta un secondo. Devi accendere, che scalda la casa. Chi no che viene da Muri? Ehi, a chi no che non avanti Black. Sì, buonasera a tutti, Gianfranco. Claudio, mi puoi dire come sta andando? Che ho riparato un microfono che avevo, che era tutto corroso il cavo, è un microfono manuale. Va bene Gianfra, ciao, buonasera, ben ascoltato, va bene, sembra che va bene. Ok, quindi è operazione riuscita. Vabbè, si è mangiato il cavo senza neanche usarlo. Anche quelli che avevo lavorato un paio di quei microfoni di portatili, me ne erano rimasto due, me ne sono rimasti, lo sai che si sono autodistrutti, tutta la plastica, la gomma spiralizzata è partita, roba da matti. Ma vabbè, grazie Cla, buona serata a tutti, scusate se ho interrotto. Io devi scusarti, siamo qua anche per quello Gianfra. No, già stanno andando bene. Ok, ciao, alle prossime. Ciao Gianfra. L'ho acceso adesso, ma che cade, se no è un freddo, no, che allucinante che è. Non ti vado lucidata senza ciuffa, ma non c'è. No, già c'è, ma è coricata, sta guardando la televisione, capito, si è sdraiata. E seguente la camera da pranzo aveva un freddo allucinante, adesso che ho acceso la stufa l'ho messa a 24 gradi, dice adesso è scalda. E la prima lo devi accendere fra, vabbè che quella già scalda subito lì, che va bene. Perché è grande questa stanza, capito? È un bel grande, quindi scalda, adesso ho chiuso la porta, la faccio scaldare e poi apro l'altra porta e faccio entrare l'aria calda. Ci conferma, va bene. No, qua in questa stanzetta, vabbè, ti abbiamo scatto i catturoni, comunque c'è, non si fa a mille, non puoi educare, non puoi pigliare la mano. E vabbè, il termosifone, diciamo che scalda di più della stufa a pelle, ti capito? Perché quindi si accendono automaticamente e poi si spengono. Non so, questo si dovrebbe spegnere alle 10, mi pare. Alle 4, alle 10, 6 ore rimane attaccato. Cosa c'è, la caldaia a gasolio? No, è a gas, mi vero. Quella che c'ha Pinuccio c'ha la caldaia a gasolio. Infatti gli ho sistemato il bruciatore l'altra volta che c'era il bruciatore bucato, gli ho saldato. Ehi, no, noi siamo a gas, quello non è vero. Caldaia a gas, però abbiamo ogni appartamento, c'è il timer, capito? Se io voglio calore prima, però siamo tutti alle 4. C'è qualche vecchietto, forse quella dell'ottavo del nono, c'erano alle 3. Però noi ce l'abbiamo tutti alle 4. L'accende alle 16 e mi sa che poi la spegne alle 10. E anche questa, alle 16 alle 22. E ancora c'è fiducia lo stesso. A poco consumano quella caldaia a cosa? Gasolio. Infatti la nostra prima era a gasolio. Poi abbiamo fatto il contratto con la Merea, siamo passati a gas. Ogni volta che fa il rifornimento 250 litri di gasolio. 250. Lo so, ma è costosa. Ma è costosa. Lo so. Infatti noi parlavamo un bel con il coso, con Carlini. Se invece ci abbiamo il gas e ti dico che scaldano bene, non si fuma parecchio. Io c'ho in cucina c'ho la zippero anche, capito, che è accesa adesso. Quella scalda un bel, scalda quanto questa. Ma questa zippero fra conviene, tutta fa. Appena l'accendi sì, però poi non ne fa più. Però ti posso dire, ti posso garantire che scalda un bel là, va benissimo. E quanto costa un bidone di zippero, che consumo c'è? Ah, un bidone di solito ti fa 18 giorni, un mese anche, dipende da quanto la usi. Noi l'accendiamo la sera, diciamo ci fa un mese. Ho capito. Perché a Casanova c'è la caldaia anche lì, a gas. Quindi sto decidendo cosa fare, se usare la caldaia a gas oppure se farne un altro impianto a parte. Non so fino a quanto ti conviene a gas. Secondo me risparmi con la zippero. Ma c'è tutto l'impianto a gas, fra, capito? C'è tutto l'impianto a gas, anche lo scaldabagno a gas. E allora da farlo a gas. Cos'è con Menea? Tanto è gas città quello lì, non è che sia a grande costo. Sì, arriva il gas anche lì, quindi... Ma mi pare che da poco che arrivi. Pare forse un anno e mezzo che hanno fatto l'impianto anche lì dove sono ora, dove devo andare io. Qua hanno fatto l'impianto lo stesso, l'impianto di gas di città, e nessuno ne voleva mettere, ha detto, ma fa punito bambe su, cambio vado qua, prendo le bombe, me la fatti nuda. E lo sai fra cos'è, che costa la caldaia, cazzo? E la caldaia che costa, maledizione, perché l'impianto in se stesso non è che costi molto. La caldaia poi quando si rompe, anche aggiustarla ci vogliono i soldini. Lo so. Vabbè, io... Adesso vediamo. Io non so come si andrà la caldaia. Guarda che cosa è come si andrà, è un casino, un pezzo bagno accampato. Ci apre soldi, ci vogliono, tra cose, soldi. Come ti muovi, esci i soldi, non esci i soldi, torna a lì, soldi, sempre da fare c'è. A me mi sono spaccato i flessibili dell'avvello, del coso, del bagno, e mi si è tagliato il pezzo dentro, quindi ho dovuto togliere il pezzo, tagliarlo, col seghetto, cazzo, un casino. E mi lascia perdere i soldi. Soldi, mamma li durci. Per quello che valgo, intanto adesso siamo, da domani siamo Torre Arancioni, i locali torna chiusi, via. Adesso fanno così, Pasqua chiudono, poi rimettono zona bianca, poi fanno passare l'estate e poi ci richiudono di nuovo. Sì, ma se la gente capisce veramente qual è il problema, forse riusciamo a toglierne piedi, ma se la gente non capisce, fra, continua a fare i cacchi suoi, cosa vuoi fare? Per lui parliare. Non riusciamo più da questa cosa, da questa storia, guarda, è un casino. Io stavo leggendo che dice che ne abbiamo sino al 2023 di questa merda qua. Non lo so, guarda. Adesso era a 15 giorni a casa, figurati, che asporto non fanno loro, non mi interessa. Non guadagna nulla. Cosa guadagni? Quello che hai guadagnato ce l'hai già rimesso, capito? 15 giorni di chiusura, hai guadagnato 100 e ce ne metti 200. In macchina l'asporto non guadagni niente, capito? Cosa guadagni? Consumi luzzi e basta. E quindi hanno deciso di non aprire. Vabbè. Quindi devi aggrattarsi. Anche Marco, quello della chicca preferita, lo stesso, sta facendo consegne a domicilio, perché sono chiusi, sta solo la pizzeria aperta, capito? Sì, ho capito, non fanno le consegne a domicilio, quindi prendo le pizze io qua, anche a Guazzi, lo stesso, non ha mai chiuso praticamente. Ma perché? ieri notte l'aria è rientrata, ha chiuso alle 9, ieri è rientrata a casa che erano le 10:15, quello che c'era non le piaceva e ha chiamato, si è ordinato una pizza e l'hanno portato alle 10:30. E vai fatti. Ma anche noi a volte ordiniamo dalle pizze, quando certe volte non sai cosa va, giusto per cambiare ogni tanto, capito? O affaine o pizza. Giusto per cambiare le cose, sono sempre pasta a pasta, gatto, per carità. No, mi voglio qui, fatemi il tuo letto, l'aria è uscita con Mario. Devo già letto, ma cosa facciamo? Bisogna telefonare ai giorni a Rigetti. Per le 8:30, con due pizze ci abbi al culo, c'è tanto, già vai. E infatti, in definitiva è così. Chi è che vuole entrare? Avanti. Ho sentito uno lontano, Ma lì c'è la propagazione, va. Da Santiago 5-6 sta arrivando. Anche a me, 6-7. Non si può arrivare. Allucinante. C'è un bel propagazione, con questo cambio di tempo. Se tu immagini, poco fa stavo ascoltando i 40 metri, in Alta Italia, è tutto neve, ammazzo, allucinante. Adesso dice che praticamente dal 29 riscende di nuovo la temperatura, ha dato neve a bassa quota. C'è questa perturbazione da Russia, la Norvegia, ma non ha mai, ragazzi, non più avanti devi essere questa perturbazione. Non ti fa fare niente, ti va di uscire tutto il tempo, hai paura di uscire perché c'è freddo, ma ricevi di gente malata, questo colpo d'aria che influenzati, per carità. No, c'è freddo fra, ma freddo davvero, mi sto dicendo, io non so se lì è, c'è meno freddo, ma qua in alto sono un freddo da gran carassi, ragazzi. Meno freddo qua, c'è un freddo qua, altro che la Siberia, c'era vento di coso, quando è sino a ieri, non so se oggi pure c'è vento di tramontana, ieri era greccale forte, c'era un mare da paura. Infatti te lo volevo dire, un bel mezzo della montana, ma è più che greccare, perché è un bel freddo, c'è proprio l'aria fredda da neve, capito? Allora, ieri mi ha detto Marco Caria, che sta facendo lui, c'ha cioè, lì, alla chicca peperita, lo vede il mare, no? Mi ha detto, dice che era tutto bianco. E non dice, intanto io ci attira poco lì in quella zona, io non ci ho lavorato io, in quella zona del mare, per carità, cazzo, no. Quando andavo all'Isola Rossa a fare i controlli lì all'impianto di sollevamento che c'è al porto, quando doveva greccare o maestrale non si poteva fare un controllo. E va infatti. Allora, il discorso è questo, che la tramontana la prende piena qua, capito? Non è come il maestrale che è chiuso un po'. Invece la tramontana la prende proprio in pieno, la prende proprio libera, capito? Sì, non c'è. Poi è troppo fredda, tramontana, un vento, mamma mia, che per carità, guarda. Le fibre più una bella maestralata che la tramontana di sempre è lucide. Ehi, sono rientrato. Diciamo che la tramontana è il vento del nord, capito? Il vento più freddo che c'è. Lo so. Riprendi anche con Franco un attimo che vado a bere. Gappa, ehi, mi ha acceso la stufa. Si trovo su e ti vorrei arrediti, buone. La stufa che io. Io ho acceso la stufa a pellet perché c'era un freddo da cagarsi. No, qua ce l'ho a gas, ce l'ho. No, questa che c'ho io già scalda, adesso la lascio accesa un bel po', l'ho messa a 24 gradi, ho chiuso tutto, adesso scalda bene, dopo già si spegne in automatico. Cappa, quella che ho io, ho la stufa a pannello, si attacca la bomba là sopra, quando finisco la stagione si accudutto e va a posto. Vabbè, tu problemi di bombolo già non ne hai. Cappa, non ne ho no. Ma tu le bombole le paghi? Non le pago quanto le paghi tu, no? Vabbè, le pagherai 10 euro tu. No, non esagerare. Beh, uno che lavora lì mica le paga le bombole, o le paghi lo stesso? No, a pagare me la fa pagare, però quando la paga lui. Ho capito. Ma tu la senti questa propagazione che c'è? Aspetta che apro lo squash. Hola. Appena si sente. E quindi va bene questo MB+4? State scherzando. Guarda che la ZG molti lo criticano. La ZG fa dei buonissimi prodotti. Cioè l'MB+4 è MB5 sono il top, sono. Allora, l'unica cosa che hanno fatto la cazzata è l'MB più 4 è la capsula, che non si va nuda. E poi l'altra stronzata che è stata fatta è che hanno messo il trimel praticamente saldato al circuito stampato. Solo lì l'hanno fatta le cagate. Ma poi la cosa è relativa, secondo gli apparecchi l'attacchi va bene. Ma diciamo che si adegua quasi su tutti gli apparecchi. L'unico apparecchio che non si adegua è quello che non c'ha il Mickey Gay, capito? Che non gli puoi fare praticamente la preamplificazione, tutto lì. Però per il resto fanno bene, dai. Capo, no, no, guarda, ti faccio sentire il mio, cazzo, la cannonata con l'87. No, scavo, già va bene, già. Oh, che io, cioè, non è stato mai dirigato, è buono, nuovo, nuovo. Io lo tengo bene, lo tengo così com'è, eppure tutti mi sentono bene, già mi inteso una che forza. Ah, ma stai uscendo bene, non ho niente da dire, ti ascolto benissimo qua. Io ho le cuffie, Capo, vabbè, questo non è MB più 4, chi c'è un altro discorso? Già si sente, tu. Capo, comunque sono contento, sono contentissimo, va. La verità. Funziona tutto bene qua dentro, e poi c'ho sempre le stazionari sott'occhio, capito? C'ho tutto sotto controllo. Eglia, andava. Io ho sistemato quella Ringo. La Ringo? Cappa, l'ho tutta sistemata, ho tolto quella pinzetta che c'era, gli ho fatto tutto il filo nuovo, ho cambiato la basetta del PL di sotto, gliel'ho messa in baccherite, l'ho tutta rifatta, diciamo che è un gioiellino, l'ho anche provata e va benissimo. Ma la Ringo M come quella mia? Cappa. Pure io quella là l'ho aggiustata, perché ci staccava dal centro. Quella se io la metto, quella lì mi dura una vita sul tetto. Non si stacca più dal centro, tranquillo, perché io ho forato e gli ho messo 4 rivetti, tutti belli in giro, di russa la grande. Gli ho rifatto il filo buono, filo più grosso di quello che c'era, da troppo fine. Gli ho rifatto il filo grosso, gli ho messo la basetta del PL, risaldato tutto, PL in bacchilitte, la femmina in bacchilitte, dove abiti proprio il PL, ripulita tutto, regolata in stazionaria non ne ha quasi niente, e 5 ottavi e va benissimo. Cavolo, guarda, neanche la mia, guarda, manco si muove, ti vuoi ti mando la fotografia? Guarda, manco si muove la stazionaria, allucinante. Eccolo qua, guarda, oh là là, ecco, ti ho mandato una foto. E dopo io con l'antenna volevo fare ancora un'altra modifica, praticamente quando è fatta, poi ti manderò la foto e te la faccio vedere. Praticamente io gli metto il radiale a quell'antenna, gli faccio il radiale da 1,75 m, gli butto giù 4 radiali o anche 3 da 1,75 m e poi la provo. C'è la mia, capo, non pompa, se c'è forte, ma così muovi lo strumento in ovvio, perché l'ho lasciato attaccato, ma così muove qua. Pensa che forse quella che io è il bacchilitto. Io invece gli voglio fare il piano di massa con il radiale da 2,75 m l'uno. E poi la voglio provare, secondo me rende ancora di più. Tant'è ne lavorano in corto, so già. No, non è imbacchilita, è normale, ma già va bene lo stesso. E se muove robusta come l'ho aggiustata io. Ma che cannonate si muove più, chissà. Ah, già vanno bene. È come quello che ho piazzato io. In definitiva, quella che ho montato io è una Ringo, solamente c'ha 3 radialini, non è che sia molto più superiore a quella. Guarda, vanno bene, io mi trovo benissimo, mi intendono tutti, mi intendono. Ma che c'era, Claudio voleva entrare? E io ho detto, sono rientrato. Stavo dicendo, qua, sulla Ringo gli voglio montare praticamente 4 radiali da 2,75. Non si può fare, ma sono troppo grandi, fra. 1,60 m vanno bene. Oppure gliele porta 1,60 m, secondo me rende molto di più. Beh, c'è un bel piano di massa. 1,60 m come quelli della Matta vanno bene. 1,60 m, anche in alluminio vanno bene, secondo me già rendono lo stesso. Anche perché quell'antenna, ho controllato, lavora in corto quell'antenna, quindi si può fare benissimo il piano di massa con i radiali da 1,60 m come piano di massa. Alluminio deve mettere, già ce li ho io, c'ho quelli della Mantova Turbo Mansarda conservati. Come lo vuoi fare, me lo dici e te dirò. Praticamente poi per fissarle stavo pensando di fargli un lavoro, fargli una curvetta che ce la piega a tubi, e faccio la curvetta, gliela appiattisco e poi ci metto due belle fascette in acciaio e gliele blocco tutte sul piano di massa e dovrebbe andare alla grande. No, assolutamente. Manello forato che entra al centro del piantone, ok? I radiali li appoggi nell'anello e poi li metti cavallotti con le viti. Sì, infatti, così va anche meglio, sì, buona idea. Un piattello, un tondo, non molto grande, forato al centro per la misura del tubo che entri bene in casso, che non si muova, che faccia contatto bene col tubo, col piantone, e poi li appoggi. I radiali sopra, fatti bene a misura, a squadra, ok, e poi li fai i cavallotti piccolini che mantengono il radiale con le viti autofilettanti. Attenzione qui, Claudio. Cazzo, mi va a vedere sopra, blu. No, ho appena mollato, sto chiamando. Guarda che hai una ventola troppo forte, si sta rovinando la radio. Aspetta, lo dico Anna, mi vedi che si è smesso, si lascia tenere bene. Sono andato per quello, perché ho appena acceso la radio. Me l'ho immaginato, perché è nella stanza a fianco, ma non è qua, nella stanza a fianco, ma 60 gli aveseghi, prende di tutto e di più. Non so neanche chi c'è, comunque salutoni a tutti. Siamo io, Franco e Bombolo. Papa, salutoni! Adabex, ciao Antonio, ciao Franco. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. Niente, no, sono entrato giusto perché ho sentito a Claudio che era ventilato. Sommerso. Vabbè, dai, riprendete, sono qua. Comunque ti mi ascolti bene lì a quella zona? Adesso sì, a voglia. Quindi già va bene, dai, ok, dai. Va bene, fra, sì, quasi 9.30. Andave. Per essere un'antenna di gomma vuol dire che già rende. Cavolo, c'era mai, non è un'antenna di gomma, è la signora antenna e funziona benissimo, funziona. Fra, sai, da 9.20 è quasi 9.30. Vabbè, sto utilizzando anche 5 watt modulati, non sto scendo con alta potenza. 5 watt va più che bene. Sì, sto utilizzando sempre quell'antenna, una vecchia antenna di gomma. Andare. No, io 10 ne ho. 10 modulati, 25, una cosa del genere. Già va bene. Non la tiro di più questa radio perché mi ha detto il tecnico di non tirarla, si chiama nella ghiappi di avvero. Comunque in definitiva Cla, è così. In definitiva è così perché la prima cosa che ne soffrono sono i finali. Finale e prefinale è la prima cosa che parte, capito? Se tu noti poi quando gli erroghi molta potenza, la ventola attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca. No, ma questa non tanto, guarda, quando è arrivata, mentre prima quando l'ho mandata era un bel tirata, e la ventola si accendeva molto spesso. Adesso mi sembra si è accesa la blu, ma F, gli accende, prima un po' più calda. Lavora meglio, mi ha detto, capito, anche perché questi tipi di radio, dal manual service, praticamente dalla casa, le vanno per 40 watt in AM. FM 600 watt, quindi non conviene tirare. Va bene. Ottimo per la truppa, dai. Avanti, Antu. Lo sai che non scalda molto. Non l'ho mai inteso io di vento, dai, no, che... Sai che io la sto tenendo più moderata, dai. Come potenza, però non ho mai sentito la venta, un po' di calore sì, però la venta non l'ho mai intesa, non sono io che vado, sono un socio, non lo so. No, è molto silenziosa anche la venta di quella radio, tranquillo. Quando tu tocchi il dissipatore, il dissipatore è caldo, si appoggi l'orecchio e la senti la ventola, e la voglia se la senti. Il 430 la ventola rispetto al 140 e al 440, ce l'ha esternamente, rotonda, dietro, quindi io la vedo quando sta girando, capito? Si vede proprio. Non la sento da lontano, devo guardare, però ce l'ha esternamente, capito? Diversa come tipo di radio, perciò la vedo. E non si attacca quasi mai, non si attacca quasi mai perché la tengo a temperatura moderata, insomma, con i watt bassi, prima invece era sempre accesa. Vuoi riprendere, T, cosa stai facendo? No, niente, ero qua al PC, ho visto, avevo la radio accesa per dire la verità, ho visto la portante, ecco qua, K, già finito, ma io lo so che fa un sacco di casino quando c'è il forno acceso. Va, quell'antenna che ha messo va bene, non è ingombrante, è piccola. Io ti ripeto, non lo so se rimetto la mantova, non lo so, devo vedere poi quando sono sistemato cosa può permettere, che non sia molto brutta anche da vedere, capite? Non lo so, vediamo un po'. Ma ti volevo chiedere, non è che hai qualche alimentatore da prestare, giusto per attaccare un baracchino piccolo? Sì, io ci ho tutto imballato dentro le scatole. L'unico alimentatore che c'ho fuori è questo della Proxer. Dovrei averne due, uno da 50 e uno da 40, però sono quelli switching brutti, non ne ho altri. No, è giusto per mettere una radio dentro un container, capito? Giusto quando sono lì per ascolto, quindi per mettere un baracchino piccolo, un Miran. Dovrei avere qualcosa, dovrei avere due di quelli switching brutti, dai, quelli in alluminio, quella roba lì, quelli dovrei avere, altro non è ottimo. C'ho solo questo proxy fuori che mi alimenta il 430, anche quello era già dentro la scatola, l'ho tolto per alimentare il 430, sennò il Galaxy va a 220. Sì, ma non mi interessa, era anche uno di quelli da 5 A, ma non c'è niente, io sto per... che poi magari sento qualcuno, voglio parlare, tanto di mettere uno stile di la PLC 800 le metto. Ehi, adesso quando te lo blocco già ben se ne pongo a fare piazza antenne, prima mi sistemo tutto a casa, poi ti ripeto, quando ho finito tutto vedo cosa fare, se montare nuovamente la mantova in qualche angolino, a qualche parte, o se mettere qualche antenna più piccola, adesso vediamo. Va bene, qualcosa dovrei avere, ti devo guardare, e ho tutte le scatole accatastate, già c'è scritto comunque dove sono le radio, dove sono i microfoni, dove sono gli alimentatori, se ti serve te lo do, non c'è problema, pare che sia uno da 40 o uno da 50, se non mi ricordo, o 62 da 40, buono, se non mi ricordo, comunque guardo. Così metto la radio anche lì, perché quando ho intenzione di fare qualcosa all'interno, non ce l'ho qua a casa, ma ce l'ho qua, capito? Ah, beh certo, si sta facendo il posto, e anche io vado, c'ho una casetta fuori, che dovrei adibirla ad attrezzi, ma sicuramente deciderò cosa fare, se farlo appunto a cose così, quando ho a fare qualcosa, quindi anche lì metterò qualche cosa, vediamola. Con calma e tranquillità, non so come scende la radio. Vai, bomboli. Capa, rimetti qualcosa, ti metti la voglia in campagna, già ne vuoi va così, piano piano. Devi pensare a sistemarti, poi dopo puoi vederlo con calma la situazione. Ehi, ma infatti non so come scende la radio, va. Vediamo come sistemare le cose. KK, Franco. Ah, Fra, a proposito, ci sei? Aspetta che ti mando un video che ho mandato, che ti faccio vedere il container, qua, quando il telefono arriva. Ehi. Ah, l'hai preso? Capa, vabbè, ve lo dico da Rubaretta, ve lo dico da voi. Che mi hanno detto una cosa. sì, l'ho preso. E a Puglia, se le dico le cose che faccio. Aspetta, fine che cerco, ti ho mandato questo giro. Eia. E quello l'hai detto inventare per fare quel lavoro che hai detto a me. Sto scherzando, è già commentato, è 15 centimetri commentato. Ah, l'hai già preso così, bene. Ottimo, per quel lavoro lì ti è micidiale. Stai tranquillo, perché ne ha uno in campagna mio genero. Anche loro fanno quel tipo di lavoro lì, a volte, quando era vivo il padre lo facevano più spesso, adesso un po' meno, però era favoloso. Favoloso, ti dico favoloso veramente. No, guarda, adesso ho messo anche. Dovrebbe essere già arrivato. Ho fatto i tavoli, ma a questo tavolo è da 3 metri, l'altro sono 2,50. E poi se tu guardi dietro le finestre, già se ingrandisci la foto, vedi cosa sono, sono 6 finestre che ha, o 4, cioè, non ne ha 6, delle quali sono già apribili dall'esterno, no? Per poter arreggiare e quant'altro. Ma guarda, trovo, è bellino, eh? E io adesso lo guardo. Ma gli hai fatti tu le scaffalature? E allora, che ha fatto? Silvia, maestro Zigas, bello, vedi, questo è bello arieggiato, c'è le finestre, sì, bello. Adesso ho finito di fare anche l'impianto elettrico, perché diciamo la verità che non aveva la luce, quindi ho messo 3 lampade da 120, nei lati e una frontale, perché ci vuole luce quando fa la cosa, capito? Ma puoi fare in un sottotetto. Cacco, di chi riesce a lanciare la radio? No. ci ho pensato, credimi. Allora, oggi c'era freddo fuori, non so se ho fatto la temperatura di fuori. E stavo lavorando con la porta aperta facendo l'impianto elettrico. Cazzo, uscivo fuori, c'era freddo. Entravo dentro, stavo bene, poi. Altrati, Sara, Sara Radio Redda me l'hai uscita dai chili. E non infierire, cari, mi sono peraltro. Bella, anche le giacche si possono appendere, vedi? Eccomi, stavo guardando quello che hai fatto. Bella, veramente molto molto bella, sì, è anche grande, spaziosa, per quello che devi fare tu, guarda, è favolosa. Ho detto su Facebook, ho visto qualche foto. Aspetta che te la mando. Sì, vabbè, è il lavaggio forse, perché non l'ha fatta. Ma caro, sai che è entrato un camion gru grande, il nostro, cazzo, si è dovuto bloccare lì all'entrata, cioè è entrato dentro la campagna, ha fatto tutta la strada a retromarcia, nel cancello grande da 4 metri e mezzo non è riuscito a entrare il camion di 9 metri. Allora ho dovuto portarla in fondo alla campagna della strada, diciamo, dove il punto più largo, e l'ho fatta mettere lì. Dopo 2 giorni ho chiamato un altro camion gru, che è uno che lavora lì all'Ottobotanica da noi, e ha portato un camion più corto, però con una gru molto più grande. E mi ha detto, cazzo, non è pesante questa cosa, però era pesante, io, ma piena è, ma non la piena, quando l'ho aperta l'ha vista, cazzo, io me lo grabo della gru, perché è talmente commentata che è bella massiccia, ha 15 cm di commentazione, cioè non è una cosa, non è una lamiera fina, capito? Poi già la lamiera in sé è una lamiera grossa, erano di quelle che, di quei container che usava le antenne, non mi ricordo che cacchio era, sono verdi, a prototosi c'erano un paio di quelli, sono state demolite e cambiate, e quindi per non buttarle il mio principale se ne ha preso un paio, capito? Bella è tu. Veramente bella, fatta bene, poi nuova. Il lavoro che hai fatto è eccezionale, perché c'è lo spazio che ti serve per fare quei lavori. Bella, l'hai vista tu? Ehi, stavo guardando, bella gara. Diciamo che mi hai giocato qualche sabato e domenica dentro per pulirla, farla, però è bella perché aprono tutti quei sei finestroni, aprono da dietro, capito, fra? Quindi adesso voglio fare anche l'aria forzata, volendo, nel caso, no? Per poi tutte ho messo le zanzariere in acciaio immediatamente che non entrano animali e quant'altro, soprattutto mosche, questa roba qua, capito? Sì, sì, è bella, veramente è bella. Cioè, però già è bella, da già mi piace. Ci ho pensato comunque a quello che hai detto tu, ne voglio mettere una lì per fare compagnia, ma una a 1048, magari ci metterò un più 4, un più 5. Mettilo lì, è bella veramente. Vedi, quella sarebbe ideale per chi... Io vabbè, ce l'ho il posto anche per farmi un'altra sala radio, grande anche come questa, forse anche più grande, però non ne faccio perché intanto non... radio non ne ho poche, quindi me la metto dentro casa, metto solo il 430 oppure il Galaxy 430 e il 2 radio, mentre prima ne avevo un bel, capito? Perciò resto dentro casa, se no avrei fatto una bella sala radio anche nell'altra stanza che c'ho fuori, anch'io ne ho una stanza fuori, che è intonacchiata esternamente, internamente non è manco finita. Sì, sì, no, diciamo che lì sarebbe uscita veramente una sala radio colventata così, poi ci puoi vivere, quando queste cose qua sono fatte apposta, capito? Adesso però ci devo mettere, ci ho già messo all'interno, non si è visto, però c'è anche già il umidificatore, già la componentistica per la stagionatura, capito? No, molto bella, molto spaziosa, caspita, 6 metri di piano più 2,50, scaffalato così è ideale, va bene. Ottimo per la truppa, avanti Anto. Stavo guardando, bello, ragazzi. Cioè, cosa ci fai lì? Cos'è l'officina tua? Cos'è? Come la fai? No, tu un giorno mi hai chiesto una cosa e ti ho detto che non la potevo fare perché non avevo il posto per farla. Ora ce l'ho. Ah, capo, cosa ti avevo chiesto? Qualche fetta, no? Il ciumbu. Ah, con le salsicce. Sì, sì, oh, mamma mia. Ricoglionito qua. Quell'altro dovrebbe essere tipo una cella a frigo, mi capito? Quando le fai, le appendi lì, puoi fare la scorta di tutto, anche il formaggio, di tutto, qualsiasi cosa. E rimane fresca, bella, ordinata e pulita. Soprattutto, no, che rimane che pinghinoso. Perché ci vuole pulizia, poi secondo la metti a stagionare, se è fresca, si appoggia la mosca, di fare uova e quant'altro, soprattutto da questo periodo in poi, capito? No, guarda, io sono solidale in quello che ho visto e quello che hai detto. Quello è veramente pulizia, ordine e sicurezza di tutto, perché quello è veramente una cosa fatta bene. Tu sai benissimo, non ti devo insegnare niente, che chi fa quel tipo di cose lì, io l'ho visto ad esempio, non qua a Sassari, ma in altri paesi, hanno tutti quel tipo di sistema, container chiuso così, arieggiato, bello, fresco d'estate, è fatto veramente bene, con il tavolino, addirittura dentro c'è il frigo, capito? E quando portano le persone vedono pulizia, ordine e tutto, no? Appiccato i gantini, quelli giorni che vi passeggiano in alto, ma non ti innanti. Adesso mi preoccupo, mi procurano un piccolo frigo, perché non voglio una poltrona ingombrante, capito, sono magari giusto anche di quelli piccoli, bassi, che ci sarà sotto lo scaffale, che non impedisca, capito? E poi un freezer piccolino, perché quando è finita l'ambaradana la puoi anche refrigerare volendo. È certo che sì, no, ma quello è veramente, ti ripeto, ordinato, pulito, è una bellissima cosa, ribadisco che l'ho già visto in altri posti, soprattutto a Nulvi, molti pastori, insomma, coltivatori eccetera, hanno quel tipo di sistema lì, fatto così a coltane, dove tu apri, dove dicevi, i sugars, dammi due righisci, una forma di quello, c'hanno di tutto e di più. Vero, poi sono in contatto, perché sta lavorando con me una persona che ha bestiame, no? ha preso gente da lavorare, e questo è di Donato Portorres, partì un po' lì, in quelle zone lì. E, aspetta, come si chiama il cognome? Porca miseria, aspetta che te lo dico. Vabbè, lo cerco e te lo dico. E anche la bestiame, anche la cosa di fare queste. Sono qui qua perché è la ragazzina in mezzo, capito? Sarà lì della zona della Corte, la Ferraia, Palmadola, quella zona lì, sicuramente. Il caporottore, se c'è qualcuno lì nella zona più interna, diciamo, e magari lo conosco anche. Sono anche tanti anni a Portorres, quindi a cognomi non è che sono molto forte, ma se mi mandi qualche foto o qualcosa magari lo conosco pure. Boboli, io lo buono in mente la gabbetta li abbiamo pure noi. Non lo bacia io, mio. Sole si chiama il cognome, Gianluca. Ma c'è il baracchino, no? No. Diciamo che l'azienda adesso l'ha mezzo abbandonata perché i costi sono troppo elevati, cioè lo fa per uso familiare e basta. Nel Sostentino, lo so, quella zona lì, Palmabula, la Corte, quelle zone lì. Non te lo so dire, Cramaretto, che a 20 minuti dal capannone nostro, noi abbiamo il capannone lì al Rosario, quindi. Bravo, 20 minuti, allora o abita alla Corte o a Campanedda, alla Pedraia, capito? A Porto San Nicola, e da lì, dal Rosario è così, quindi sì. E magari se vedo qualche foto lo conosco, perché lì alla Corte ci abita mia nipote, la figlia di mia sorella, capito? Che praticamente è sposata col fratello di bah, devo dire l'impressa, lavora con l'ufficio Antoretta, un scavatorista. Come si chiama il cognome? Sarà mai Radomi, lui, aspetta che lo dico Anna. Ella no, perché io lì alla Corte ho lavorato per anni e poi conosco anche qualcuno, diciamo, importante della Corte, nel senso che i più nominati, ecco. Finalmente ti sei fatto il tuo coso. No, allora sì, c'è il posto, c'hai. Vittorio lavora con Vittorio Piga lavora con Mura in cava. Adamo lavora con l'ufficio autorità. Ho capito. Aspettatemi, avevo allontanato 2 secondi che devo aiutare la Marisa a sollevare lo sembino, che è poverino e stanco. Oh, così è. Reggio. Propagazione, non ti preoccupare. Come sentiamo noi a loro, loro già sentono a noi. Già non le parlo mai, no? Hola. Sì, fatto. Diciamo che era il mio interesse. Fino a quando l'ho visto e l'ho fatto. Bene va, Tino, bene va. Benissimo, alla grande. Te lo ripeto e ribadisco che è un lavoro fatto bene perché è ordinato, pulito e tutto sotto controllo hai. E quando apri Rayana è pulito. Te l'ho detto, ne ho visto io, guarda, da schifo ne ho visto, capito? In cantina con un pingo che gli fa già piccata, butta mano a tenanti. Tu pensa che ha la porta antipanico addirittura. Lo so, me l'immagino, ma si vede che è un bellissimo container, ti si vede. Mi facile che ti possono chiudere anche dall'esterno, però alla maniglia è anche lo stesso, capito? Bella scusa. Guarda, io ti dico una cosa, quando lavoravo, che facevo servizio a Tempio Pischinaccia, praticamente in alto, dove ci sono le sorgenti lì, c'era un impianto di potabilizzazione, ma ti parlo nel 96-97, che facevamo i turni, facevamo la dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10 e dalle 10 alle 6. Io avevamo un container così, non so se era più grande di quello, forse sì, ma dentro c'era anche la cucina e il bagno, ma si stava da Dio quando facevo il turno di notte. C'era un caldo dentro, e mica ne beccava lì, era un freddo che badavi la giamba pure, ma c'era un caldo dentro allucinante. Sì, ma tu pensa quando sogni una cosa da rinfrescare e rimane sempre la sua temperatura, capito? Sì, sì, ma anche questo era grande, enorme, così, bianco. E appunto c'era dentro anche il condizionatore, c'era per il caldo, ma d'inverno si stava da Dio, veramente si stava da Dio. È che eri un po' chiuso, diciamo, non è che ci fosse tutto questo spazio, però si stava bene per una persona, per fare il turno si stava bene. Eravamo un notturno, allora l'avevano cambiato e c'era un container di quelli con le finestre così, bellissimo, stava benissimo. Quindi cioè, quasi non va bene. Sono, a volte ci sono delle campagne, io c'ho uno che conosco nella Budi Budi che non si può mettere niente per risparmiare, perché voleva fare un prefabbricato di quelli in legno che costava tantissimo, ha preso un container, mi pare, da 8 metri, tutta l'estate lì stanno, marito, moglie e due figli pure. Figurati. No, vabbè, ma poi il bello è che ne ho visto coventati con i classici pannelli da 3 centimetri, ma questo è 15 centimetri, cacchio. Figurati tu, guarda si vede che ha fatto bene, si vede, poi sicuramente ci sono i pannelli all'interno col poliuretano, è di lusso, va bene. Tra mezz'ora faccio un pensierino che verrà già la radio. No. Vabbè, Antonio, ripeti. Cappa. Che è bello Giallo incontrarla, capo, non ci possono fare tante cose. Qualcuno ce l'ha fatto anche per l'estate, ce l'ha fatto. Tipo Campbell. Sì, ma vabbè, quello sarebbe l'ideale. Per poter dormire in estate, perché caso non avrei mai, io mi ricordo quando avevo lavorato che ci ho preso anche qualcosa lì dentro, nella zona dove non adoperavo, diciamo, quando ero qua a casa. Però avevo rotto massimo 5 cm coventata, leggera, non è che facciamo lo stesso. Caffa, va bene, sì. No, già. Vabbè, la meglio cosa è il camper, se ci vuoi vivere, però anche quelli ce la mettici bene, va bene. Aspetta, Mauser, che è quello che c'ha la campagna da Budi Budi, ti sto dicendo che c'ha questo container, mi pare sia 8 metri, grandissimo, enorme, c'è il bagno dentro, un angolo cottura fatto, tutto. E poi c'ha la veranda appoggiata praticamente al container, enorme, grandissima, d'estate mangiano fuori al fresco e ti dico che è bellissimo, anche quel camper. Lo so, vabbè, quello perché in campagna ed è fermo lì, non ci devi viaggiare, ci vuole il camper. Vabbè, certo, sì, ci devi viaggiare, ma col camper in campagna così fisso non lo puoi fare. Mia sorella lì a Stintino ce l'aveva lì nel piazzale di Derudas, che lo lasciava fermo d'inverno, quando non lo usavano, c'erano lì il messaggio. Sono entrati i giorni minoretti che si di campagna, ne hanno mangiato tutti i gerini, tutto, se ne hanno mangiato tutto. Questo da una rega ha fatto. Ha fatto nera, era infatti vergognato. È che sono molto amici con il figlio di Deruda, se lui era morto. Però siccome c'è anche l'assicurazione lì, perché è un messaggio a pagamento, capito, tutto in ordine, non so come ne siamo usciti, però chiaramente cosa fai, topolini in campagna ci sono, non c'è niente da fare, se non c'è il gattino che li blocca, che anche non ti sente dentro, io guarda, ti giuro, la mia paura è quella, infatti ho detto, se vogliamo arrivare in campagna e dobbiamo stare barricati dentro per i topolini, ma come devi stare barricati dentro per i topolini? Però le porte vanno chiuse, perché noi non abbiamo la campagna di gatti, ma a parte il fatto che abbiamo già il cane, noi abbiamo la campagna di gatti, basta fare i giorni, no? Basta stare attenti perché i topolini di campagna ci sono, e dove c'è il topolino di campagna c'è anche la topolina, quella più grande, quindi bisogna stare attenti, vero T? Allora, ma il bianco che mi sta arrivato la fine, che fanno più danno sono i piccolini, perché se ti entrano dentro quelli lì sono questi che fanno più danno, perché iniziano a morsicare cavi e quant'altro. Ehi, cavi e mobili, sto dicendo a mia sorella, mia Alemania, le hanno bucato tutto l'arredamento, no? Cioè, i cavi c'erano tutti quella gomma piuma, quelle cose lì, i cuscini, abbalervati. E poi hanno rosicchiato, hanno fatto un bel di buchi, hanno fatto un bel di buchi, capito? E quindi ha fatto un bel di danno, infatti la cognata l'ha incassato nero. Però mi ha detto, cosa ci posso fare? Io non ho... i topolini in campagna ci sono, il piazzale è bello, è tutto pulito, ordinato, tutto a ghiaia, però la notte loro escono per cercare da mangiare, magari, sai, dentro il camper c'era qualcosa, sono entrati e hanno fatto danno. Sì, sì, sì, e tu pensa che, già lo sai, giù in quella casa che conosciamo noi, per l'impianto di una macchina importante, non è che... Marco, fermo, dai, che mi è arrivata la pizza, ci sentiamo dopo. E intanto 20 minuti e scendo Reoli, e tu non la mastichi la pizza. Capito, già siamo qua. Sì, sì, sì. Ma guarda, quando inizialmente è stata fatta quella, no? Che avevamo fatto un primo spuntino lì, avevamo un bel livello di maturi. L'aveva già visto quella persona là che tu conosci, l'aveva già visto un piccolino dentro, perché lui inizialmente abitava lì, ti ricordi, no? L'aveva già visto un piccolino. Sì, sì, sì, sì. Ciao Anto, ciao, buona cena. Perché purtroppo poi quel posto così grande, tutto il piazzale eccetera, ci sono i tombini. Hai visto, no? Già lo sai, conosci meglio di me, però io l'ho vista fare, sono tutti tombini con i cavi. E una volta una persona, lo stesso che ben conosci, ti ha fatto lavori di impianti elettrici, c'è Ballevari lì, no? Che adesso penso che non ci sia più, non so, vabbè. Aveva aperto e aveva dovuto mettere tutte le bustine per i topi perché stavano mangiando tutti i cavi. Sì, però, vabbè, io glielo ho anche detto, siccome quelle bustine lì, è vero che attirano il topolino, però non le devi mettere dove potrebbero fare danno, le dovresti mettere negli angoli delle case, della casa esternamente parlo, oppure lontano dalla sala radio, perché se tu metti il mangiare, quello è un'esca, no? Tu metti il mangiare, io te lo dico perché ho lavorato anche con una persona che fa queste cose qua, dei topi. Se tu devi andare a mangiare, l'unico che lo fanno lì, e poi siccome quando mangiano poi iniziano a impazzire e moscicano tutto quello che trovano, è come che tu metti una bustina, che ne so, di questa esca qua dentro il motore della macchina, ok? È vero che lui se la mangia, però la prima cosa che trova sono i fili, invece se tu la metti fuori dalla macchina, cioè fuori tipo nelle ruote, dalle varie, anche più lontano, loro fanno mangiare lì direttamente e non vanno a farti il danno, capito? Infatti già lo so, io ogni 15 giorni noi facevamo la disinfestazione, capito? Facevamo la disinfestazione nelle caratoie, da tutte le parti, negli uffici, però sempre esternamente, mai internamente. Internamente noi la mettevamo nei quadri elettrici, però sotto il quadro, non dentro il quadro, sotto, perché entravano dentro i quadri elettrici e mangiavano tutto, era ben chiaro, normale, e poi va cambiata in continuazione, non è che gliel'ho messa, e quando gliela 15 giorni fa non va bene, di quella la devi togliere, guardare se l'hanno bucata e cambiargliela, capito? Perché una volta che la bucano non rimaniane più, la devi mettere nuova e soprattutto cambiare gusto sempre, cambiare gusto, darle un senso, perché altrimenti non riesci a mandarle via. Ma io mi ricordo inizialmente, proprio lì, il primo periodo che è stato costruito il bunker, che aveva iniziato a mettere tutte le scaffalature, a mettere tutte le radio, no? La collezione delle radio vintage. E ce n'era uno che stava facendo impazzire, perché trovava sempre vicino agli armadi la cacca del topo, e poi tutto rubabito, rubigliava e si sbruciava, e l'abbiamo proprio scovato così, dentro uno di quegli sportelli, se n'è entrato lì dentro, si aveva fatto il nido, usciva a fare l'anno e poi se andava lì dentro e l'abbiamo pizzicato. Non lo so. È un casotto, tanto è vero, vedi che mettono quelle, anche nei supermercati esternamente mettono non sono trappole, sono per andare a mangiare lì dentro, no? quei cilindri, quelle scatolette nere che vedi, e poi ogni settimana possono vedere se ha mangiato o meno, come stavi dicendo tu, se ha mangiato raddoppia la dose. Adesso c'è una medicina che è tipo cilindrica, però questa qua non la danno a tutti, la danno a chi ha le patenti, a chi ha il corso per fare questa cosa qua, ed è molto a sapore dell'anice, a quanto mi hanno detto, ed è molto più forte di quella che vendono a uso commerciale. La Mustop lo sta facendo questo tipo di lavoro, anche noi ce l'abbiamo un po' sotto i porticati, ci abbiamo le scatolette nere, capito, col foro, e c'è la medicina dentro, però le cambia ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, viene, controlla, le cambia, capito, e così fa. No, noi di quelle non ne avevamo, noi c'eravamo le buste, i sacchi, veniva la nuova prime da Cagliari che c'era l'appalto, e lì si festava tutti gli impianti, infatti a me me li davano spesso, cioè da me ho un paio di buste, e le regalavo proprio a quelli che me lo chiedevano, gliele davo, perché sono roba buona, capito? Oppure ci davano i dadini, un giorno un mese celesti, un mese rossi, un mese neri, un mese rosa, e quelli li mettevi, quelli rosicchiano, quindi non se lo portano via, mentre secondo il topo che c'è, se la porta via la bustina, se la porta nella tana, e muore poi, capito? Perché muore soffocato. Sì, infatti, quello lo disidrata subito, capito? Quello è importante. Sì, ma noi ce ne accorgevamo, quando ho detto, vabbè, noi eravamo topi di campagna, sto parlando di topi, sarroni, grandi, rossi, di fogna, perché essendo in depurazione, capito, loro stanno nello sporco, quindi erano topi grandi, e io mi accorgevo quando entravo nei container, negli uffici, sentivo la puzza, e poi il topo, allora andavo a controllare i punti più strategici e lo trovavi stecchito, ancora in fase di, capito, perché poi lo secca, ma primo impatto, quando lo ammazza, cazzo, fa una puzza allucinante. Lo so, tu pensa, sino a poco tempo fa avevo un tacchino e una gallina, ma giusto per, se le uova, un uso domestico, quindi non è che te ne metti tantissime di galline. Vabbè, avevo l'inizio di mettere il grano, il macinato, quello che mangiavano in terra, no? E loro mangiando piano piano prendevano anche la terra, quindi facevano anche le uova un pochino più dure, perché è calcio anche, no? Un po' di sabbia mischiato, comunque sia, hanno fatto un cerchio dove mangiavano, dove beccavano, di circa, come ti posso dire, un 20 centimetri, 30 centimetri di diametro, in giro. E siccome c'è questa compostiera, siccome ci buttavo la roba di casa, questa compostiera qua, a un certo punto una sera passeggiando così, andando verso giù verso la campagna, si vedo questa macchia nera, ho detto, ma che cacchio è questa roba nera? E la gallina è già dentro, proprio il tacchino lo stesso, cazzo, ti giuro, guarda, se prima c'erano una trentina di topi tutti in giro mangiandoli, appena mi hanno visto sono scappati. Ok, vabbè, questo è il primo giorno, il secondo giorno mi sono armato, ho detto, vedo un pochino se ci sono ancora, tiro fuori una bugiarda e qualcuno lo faccio fuori. E invece cosa è successo? Che mi hanno visto da lontano, sono fuggiti. Il terzo giorno sono andato, ho comprato due pacchi di queste bustine, che è un po' diverso, con quelle rosa o rosse che siano, e quelle blu mischiate. E ne ho buttato in quantità industriale. Diciamo che l'indomani che sono andato a vedere non ho visto più un topo. Chissà, ma se l'ho provate via le bustine, li ha presi, lui ce lo ricordo, è micidiale, micidiale. Io ce l'avevo un biologo che era il mio responsabile e praticamente allora c'erano i capi impianti, il dottor Bianchi di Pefula, mi ricordo sempre. L'ho chiamato una mattina perché sono arrivato a lui via nonna, l'impianto era fermo. Tiravo su il magneto termico, pum, e scattava, e trocca, se no che aveva anche corto, di brutto. Ho chiamato a lui e mi ha detto, sto arrivando io con l'elettricista. Tanto arrivi, apre il quadro generale e no, non si vedeva niente. E hanno aperto con l'elettricista, hanno preso la scala, quelle canali grandi dove passano tutti i cavi, quelli grossi, da Mebalisso, da Utu o da Novesi, ma grossissime, della 380, come cazzo apre questo, togli il tappo della canale.